This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Buonasera a tutti, siamo di nuovo in diretta. Ah, io sento, Sentite, sentite, ci siete? Sì, sì, ci siamo. Ah, ok. È un'ora che state. Io ci sono. Sì, sì, ci siete tutti. Questa è This Basta. Is Not an Exit. Beh, bello. Ciao, almeno. Cioè? Siete su Alistair del Capo, siete in una trasmissione che parla più o meno di un periodo che va da 88 al 93. Beh, non potevamo non chiamarmi. chiamarci magari un po' tosta, la stiamo buttando sull'ignorante. Comunque siamo in compagnia della Paolino Paperino's Band. Hai chiuso la macchina, Garu? Sì. Vale, questa è una cosa interessante da dire. Sì. No, è una cosa molto interessante anche perché abbiamo gli strumenti dentro, per quello, anche perché la zona non è delle migliori. Infatti tra la città del capo si trova tra la stazione del Corriere e la stazione del treno, insomma un po' di gente, come e Alessandro Distribuzioni anche. Comunque voi suonerete questa sera qua a Bologna al Freak Out, diciamo subito. Yes, appuntamento tutti quanti. Però noi siamo partiti con un brano del 1988-89, no, anche prima, meno senza tantofla, cioè, ma proprio una roba vecchissima. Di che anno era, Ken? Beh, secondo me l'origine è dell'85 più o meno. Sì, ma allora parlateci del contesto, perché Candy era un personaggio che a me ha sempre affascinato. Ma cos'era Modena in quell'85 perché uscisse una Candy del genere? Non era quella dei cartoni animati? Beh, succedeva un po' di tutto. Noi diciamo che erano i nostri primi approcci con il genere, e ascoltavamo quello che ascoltavano bene o male quasi tutti quelli che ascoltavano quel genere: Clash, Sex Pistols, le prime cose. E vabbè, non abbiamo fatto altro che prendere la canzone di un cartone animato, cambiare il testo, renderlo un pochino ignorante, non ignorante, cioè panchettare punk rock come sound, e basta, è venuto fuori Candy. Non è che abbiamo fatto una gran fatica a fare Candy, non è un pezzo impegnativo da matti, però vabbè, ha funzionato e c'è a ridere. Ma è Modena nell'85, cos'era? C'era ancora Beh, io me la ricordo nel 93, partiamo dal mio ricordo, 93, io comincio l'università, stazione del Corriere, c'era del gran spaccio tra la stazione dei treni e quello del Corriere. Quello c'è ancora e c'era anche prima, non è che è cambiato molto. Sì, ma ce n'era un sacco e c'era poco altro, o mi sbaglio? No, vabbè, sì, in effetti... Più che spazio c'era molta scena, secondo me. Sì. Cioè c'erano molte facce, cioè cose che non ci sono più, facce nel senso vedevi dei tipi molto originali, molto naif, che adesso non ci sono più, cioè non... c'erano, io mi ricordo, faccio alcuni personaggi, anche Morris, che era uno che allora faceva le sue prime apparizioni, no? Morris ancora? Futuro? Sì, no, però allora faceva le sue prime apparizioni, non aveva ancora trovato futuro, butta fuori dell'Osis, sì. Che allora si chiamava Mascotte, quindi cioè quando iniziò a fare il butta fuori là, quindi a tutti qualche punto di riferimento c'era, sì, no, beh, vabbè, c'era il Mascotte, c'era la, allora c'era la Scintilla. E poi vabbè c'era anche Sassuolo, che c'era il Fassbinder di Sassuolo, c'era un locale, il Pacco a Castelvetro, dove suonavano parecchi gruppi. Molti non ci andavano, tiravano il Pacco. No, c'era sicuramente un bel movimento, adesso un po' meno, sul genere. Poi per altri generi magari c'è ancora qualcosa, ma... Ma il genere cos'era? Quello punks? Quello che andava, sì, nei centri sociali? Prima ne abbiamo parlato, prima di entrare qua negli studi. Avete suonato spesso la Scintilla. La Scintilla, sì, era un centro sociale di Modena. Sì, diciamo che siamo nati lì dentro. I primi concerti li abbiamo fatti lì, nelle feste dell'unità più infami della provincia, a quella di Sant'Anna, proprio posti dove c'erano 6 vecchi, 4 cani, 2 bambini e 2 amici. Divertimento assicurato. Sì, sì. Cioè, io mi ricordo che rubavamo i microfoni alle band che suonavano con noi, perché eravamo senza un capo di... No, invernizzavamo come le biciclette. Non era da dire questa cosa ancora. Ah no? No. Non bisognava dirla adesso. No, perché lo stiamo ancora facendo. No, ma non è ancora in prescrizione, soprattutto. No, è vero che lo facevamo davvero. Cioè. Ah, ci credo. Allora di anche il nome del gruppo. Ero gli Zenith. Gli Zenith, perché era un gruppo che loro erano... Cioè, loro facevano tipo, non so, musica alla Pooh. Quindi per noi erano l'antitesi, quindi già per principio erano i nostri rivali. Ecco qua. E noi suonavamo con loro, erano organizzatissimi, professionali. È uno scoop, perché la cosa non è ancora venuta fuori in realtà. Sì, no, l'ho già detto io con qualcuno di loro, ci abitiamo nello stesso paese, quindi siamo cresciuti un po' nel frattempo. E sì, loro erano organizzatissimi, avevano tutte le loro chitarrine, tutte lucide, sempre accordatissimi, accordatori primi, allora c'avevano tutto, noi avevamo un cazzo invece, avevamo a malapena i nostri strumenti, io non avevo il microfono, quindi una volta abbiamo pensato bene, visto che loro ne avevano 4 o 5, di prendergliene uno in prestito, di verniciarlo di bianco con la bomboletta, giuro, abbiamo verniciato il microfono come le biciclette quando le rubi, uguali. Quindi il punk hardcore per necessità, non tanto per scelta. Il bello è che loro l'hanno sempre saputo che gli abbiamo inculato noi il microfono, però cioè non siamo mai cioè non erano sicuri. Poi la conferma l'hanno avuta con gli anni, e qui cioè stavolta abbiamo fatto un... Adesso proprio abbiamo fatto gli anni, messo agli atti proprio. Esatto. Messo agli atti che gli Zenith ufficiale. Quindi dobbiamo un il Paolino deve un microfono agli Zenith. Non sure. Però verniciato di bianco. Beh, sì. E ormai si sarà sverniciato. Sai dov'è secondo me quello lì? C'è anche lì di libera quel microfono. Ah, sono libera. Libera, buona causa. Vabbè, esatto. Poi parleremo anche di libera. Intanto, a proposito di ignoranza. Serve saper cantare quando c'è chi è più bravo di te. Far canzoni impegnate, sono sicuro che non fa per me. Sono portato per il giro di do, le varianti non le so. Quando non mi viene niente da dire faccio... A me non mi piace di dover parlare a modo. Parlo proprio come mangio sempre le lasagne in brodo. Mi ricordo quando andavo a scuola, non sapevo dire una parola, mi venivo sempre fuori frasi tipo voglio essere libero, voglio essere ignorante, che confronto a me è più istruito un elefante. Voglio essere libero di essere ignorante, di persone come me non ce ne mica parte. Nell'albero l'intelligenza generale, non sono la radice, il punto nella foglia, sono il frutto marcio mostro che si spappola per terra. Arrivo le formiche, coi vermi fa la guerra. Com'è bello esserti semi, e ci sono meno problemi. La mia ragazza si chiama Carla, ma io la chiamo Astra. Se sarei lei non dico niente, invece no. Non mi piacciono i versi in rima, della metrica non se ne parli neanche, me la capo meglio con... Non mi fate ragionare su tutti quei perché. Quel che sento lo faccio adesso e ci penso poi domani. So di aver diritto a essere un idiota, e se mi arrabbio faccio... Voglio essere libero di essere ignorante, che in confronto a me è più istruito un elefante. Voglio essere libero di essere ignorante, di persone come me non ce ne dica tante. Nell'albero dell'intelligenza generale sono la radice, il fusto nella foglia, sono il frutto maggio che si spappola per terra. Arrivo le formiche, coi vermi fa la guerra. Come meglio essere e ci sono meno problemi. E questa? Anche questa aveva parecchi anni. Sì, più o meno no, qualche anno in meno. Ma eravate tutti studenti in questo periodo, cosa facevate? Sì, credo... No, aspetta un attimo, forse... No, lì qui avevamo già finito, perché facciamo il Venturi insieme con Fox. Venturi cos'era? L'istituto d'arte di Modena. D'arte. Però secondo me avevano già finito. Io qui avevo appena finito il servizio civile a pulire il culo ai vecchi e avevo iniziato a fare il magazziniere. Quindi eravate la musica era un dopolavoro, era un modo per non prendersi troppo sul serio, come dice la canzone. Sì, no, almeno io personalmente lavoravo, poi c'era Fox aveva Larghe in quel periodo, quindi comunque c'è... Larghe era uno dei pochi negozi in tutta la provincia che teneva tutto, dico tutto, sì, l'hardcore immaginabile. Sì. Confermo. Ma anche a livello italiano, se non sbaglio. Sì, è stato un bel punto di riferimento per chi cercava cose un po' particolari. Avevano davvero tanta roba. Appunto, uno dei pochi punti di riferimento in una città che comunque Modena offriva, ma non so quanto. C'era appunto, avete detto, sì, la scintilla. E poi che c'era? Poi c'era da spostarsi un po' in provincia, però... Insomma. Sì, oppure se no veniva a Bologna, che c'era qualche locale a Bologna, vabbè. In quel periodo c'era l'isola, anzi abbiamo anche qua Cesca che... penso che sia stato uno degli occupanti, non vorrei dire una cagata, ma direi proprio di sì. E perché a Modena no? Beh, a Bologna il vantaggio è sempre stato gli studenti, cioè essendo una città universitaria c'era un pochino più di balotte, quindi un po' più di coraggio. Modena è un po' più provinciale da questo punto di vista, però cioè c'era un po' meno numero. Però era una provincia meccanica, c'era un sacco di operai, c'era... Sì, però mancavano forse gli studenti, secondo me, che ci sono anche a Modena, però non è... Sentito, cioè, come è come a Bologna, secondo me. Cioè, Bologna aveva un vantaggio di numero, secondo me. C'era più gente, magari, in quel giro, e allora, sai, quando sei in tanti, ti fai più coraggio a fare cose. Quando invece sei pochi, ti guardano male. Bologna è un po' anche un po' più aperta. Cioè, fare il punk a Modena, sì, negli anni Ottanta era durissima. Cioè, eri un lebbroso, cioè, ti guardavano come una roba strana. Giusto, cioè, cosa vuol dire? Cioè, i tuoi genitori eri diverso, parenti. Eri strano, troppo strano, indigeribile. O sbaglio? Ecco qua. Sbaglio. Una bella sberla in diretta a This Is Not an Exit. Si è sentita fin sul microfono. Ah, sì. Ciao. Dai, adesso facciamo parlare un po' Termo, che devo preservare la voce per stasera. Dai, facci sentire un pezzo da chitarra acustica. Sembra sì. Sembra Stevie Wonder con quegli occhiali. Puoi scegliere la canzone? Candy, visto che non la facciamo stasera. L'hanno appena messa. L'hanno appena messa, dai. Beh, ma se ce la fate acustica va bene. Ignorante, visto che non la facciamo stasera. L'hanno appena messa. Hanno beccato, vabbè, così ci mettiamo. Non so. Boh, non lo so, è... Fai Jesus. Ma no, ma fa una roba antica. Dai, fai una roba antica. Fai una roba antiquata che sei solo tu. Mozart, Gilda. Dai. Gilda. Dio vai, vai, fai Gilda. Ti piace, me la ricordo, dai, prova. C'eravamo tutti quella sera alla tombola della bocciofila. Lei era lì, la guardavano tutti con occhi pieni di desiderio. Ormai ricordo, era bella, Gilda! Slanzata, con una carrozzeria da mozzare il fiato. Era Gilda, però l'ultimo pezzo di fumato fa treciso di solo alla fine, vero? Pesto dimenticato questo canale. Poi si ritorna che faceva Gilda! C'erano i flauti degli Intilimani che venivano. Sì. Usavate già i campionamenti? No. Io l'unica cosa che facevo col campionatore, quando dovevo fare note lunghe, avevo un pedale che facevo poi spingevo il pedale e faceva A da solo. Bellissimo. Sembravo Pavarotti con due polmoni così, in realtà io non cantavo da un quarto d'ora. C'avevi il compressore. Sì. No, aspetta, però c'era un campionamento. C'è un pezzo di Intilimani, di la verità. Era in Patata Malata. Patata Malata, c'era una tastiera che tu nel do ci mettevi pa. Nel re ci mettevi ta, e nel mi ci mettevi ta, e ancora patata, e malata, no? Proviamo? Suonavi queste note, facevi pa, ta, ta, un po' delle voci. Ma ce l'ho. Invece su patata malata. Ecco. We'll be right back. era questo? Sì, era lui. È sì. Rutto? È Rutto era. Sì, era Fox quello Rutto. Rutto libero. Ma patato è... malato, poi c'era rata pagata. Rata pagata delle parole. Ma tra l'88 e il 93 comunque aveste un buon successo. Cioè adesso non so se solo Modena, Bologna. Ma sì, cioè, diciamo che nel genere giravate. Conoscevano un po', sì. Ma io tra l'altro ricordo pure delle recensioni anche in magazine nazionali. Ne ricordo una addirittura su un nuovo Metal Hammer. C'è una roba. Sì, c'è allora, ma diciamo che allora avevamo anche dietro l'ARG. Sì, che quindi c'è. Loro erano inseriti nel giro, conoscevano per mestiere, perché facevano distribuzione e vendevano comunque cose un po' particolari, quindi erano in contatto con tutti questi. Queste riviste, e che ovviamente aiutava la cosa. E dove suonavate? In che ambienti suonavate? Ma soprattutto centri sociali, e poi i soldi, non so, li andavamo a pescare sempre, Sofra Fest dell'Unità, locali, allora come quelli che ci sono adesso più o meno, però altri locali, tipo a Reggio c'era il Ritz, allora adesso c'è il Tempo Rock. Abbiamo suonato all'Isola, a Bologna, fra l'altro lui è quello che ha organizzato il concerto, c'è cioè Bianco di fronte, uno degli organizzatori. Il vostro fonico. Il nostro fonico, esatto. Cesca. Poi sì, cioè, diciamo che i centri sociali, poi grazie proprio a loro, perché cioè a quelli dell'Isola, che poi ci attaccammo un pochino insieme a Papa Ricky and the Ganja Prophets, che andavamo a fare delle date insieme, abbiamo suonato a Chissà El Paso, a Torino. Abbiamo girato un po' insieme. Però Papa Ricky non faceva esattamente hardcore. No, ma no, poi no. Forse neanche voi. Cioè, come vi proponevate? Noi sì. Cioè, ma ci mettevate dentro tanto. Era un hardcore alla schianto. O mi sbaglio? Era un hardcore in italiano. Sì. Alla Bad Brains. Sì, alla Bad Brains. O la NoFX. Sì. Era un po' un mix di tante cose, a dire la verità. Cioè, non è una cosa sola, secondo me. Ma come vi proponevate nei centri sociali? Hardcore, noi hardcore. Stava cambiando, perché stava arrivando l'hip hop, appunto all'Isola, sì, nasceva, esatto. L'hip hop. Sì. Cioè, come vi recepivano comunque questo vostro approccio demenziale? Ma bene, perché comunque cioè, funzionava. Diciamo sì, sì. Che era un modo diverso di fare punk hardcore. Ma si sono sempre sposati bene quei due generi, l'hardcore e l'hip hop. Root. Quindi non c'era solo hardcore militante impegnato libero. Con testi politicizzati, c'era anche altro. Sì, cioè, beh, i testi se vuoi c'erano, però noi abbiamo sempre evitato di fare troppa morale, di far troppo i duri e puri, anche se poi magari cioè, le idee che esprimevi erano le stesse, in maniera diversa. Però un po' di morale ce l'abbiamo messo. Sì, quello è ovvio, quello cioè, ci cadi sempre, anche se non lo vuoi. Però cercavamo di sdrammatizzare più che di... puntare il dito. Sì, cioè, cercavamo di essere un pochino leggeri, non leggeri, riderci sopra, cioè ci sono due modi di prendere le cose, o piangi o ridi, noi preferivamo ridere. Come in extracomunitario. Sì, esatto, che anche quella è stata poi sempre mal interpretata diverse volte, perché ci è capitato di sentire gente che diceva, magari perché c'erano due extra sotto ubriachi che rompevano i coglioni, dicevano fate gli extracomunitario, cioè come se fosse offensivo, no, allora avete capito un cazzo dal pezzo. Però vabbè, oh, cioè ci sta, ognuno dà le sue interpretazioni. Adesso lo mettiamo e poi vediamo se arriva qualche feedback. No. Non negativo. No. Ti voglio augurare di non emigrare, perché fuori dall'Italia mi colpo. roba di stupratori, bravo. Ma la gente poi se ne frega, allora io voto Lega. Il cibo reduce, ma adesso non c'è più. Bravo, adesso ci sei tu. Io non sono mica razzista, però se sono neri ci deve essere motivo. E io non me lo spiego, allora credo nelle cose più chiare. Il mio modello è buono, è alto, bello e biondo, ma per come Gesù. Oh, ma che cazzo dici? Sei un sempliciotto, tu non sei cattivo, hai paura. Non sei informato al di fuori della tua cultura. Credi in Gesù Cristo e pensi sia un modello di esistenza. Credi di essere giusto e sempre a posto con la tua coscienza. Ma ti voglio ricordare quando sei a Natale che tu festeggi la nascita di un extracomunitario. Gesù! Extracomunitario! Gesù! Beh, insomma, l'extracomunitario Gesù, tu voti Lega. In quegli anni, tra l'altro, la Lega stava proprio nascendo, si stava affermando, quindi alla faccia della non morale. Se e come? Sì, beh, non cioè, è inutile, lo vivevate. Noi dicevamo quello che pensavamo, però è in maniera magari più scanzonata e meno seriosa. Ma infatti era un ottimo approccio dal mio punto di vista, anche perché comunque... magari nessuno se ne rendeva conto, ma poi la Lega qualche decina di migliaia di voti in provincia di Modena li ha presi e nella casa del PC sembrava quasi impossibile. Invece ha sempre fatto leva un po' su queste cose qua, poi i leghisti per prendere voti, cioè sulla sicurezza di extracomunitari che fanno paura, che quindi sull'ignoranza della gente, poi alla fine poca cultura, e quindi infatti il discorso di Gesù, anche facendo ridere, quello che la gente si immagina, Gesù alto, bello e biondo, ma Gesù un palestinese, cioè, voglio dire, adesso gli tirano i missili a quelli come Gesù, quelli come Gesù. Oh, cioè è vero, è un palestinese. E come faceva la gente a capire male questa canzone? Era... beh, cioè perché magari non l'ascoltavano poi così bene, ecco. Diciamo, mettiamola così, perché c'erano quelli magari sotto che venivano, erano i punk per 5 minuti, quelli che si mettevano il giubbotto di pelle per venire a pogare a un concerto, poi dopo il giorno dopo non... facevano altro, cioè. Erano di Anarcobancomat, sì, no? Esatto, cioè, quei personaggi un po' bellissimi. Che cos'è Anarcobancomat? Quei tipi di personaggi che Jesus Christ, esatto, Jesus Christ, esatto. Se vuoi ti facciamo Jesus Christ. Ottimo. Vai. No. Ma questa musichina che si sente sotto? La tolgo subito. Un attimo, che pazzesco. Veramente. Magari la sentivo solo io nella testa. No, sono io, sì, io che disturbo. Sei malato. C'hai un disturbo. Questa canzone si intitola Jesus Christ. Scrocco da bere alla scintilla, anche se in tasca c'hai della gran pilla. Ascolto dei gruppi crust punk svedesi, hai letto anche i testi ma non li hai compresi. Il marciapiede è il mio divano, fai quasi parte dell'arredo urbano. 12 piercing e tanti tanti tattoo. Metto tutti i ferri nella faccia per far schifo alla mia mamma, non la sai. Piangerà. Faccio quel che dice il paparino, però all'incontrario, così al fresco lui ti porterà. Va bene. Sono un panca bestia, il mio nome è Jesus Christ. Manca la seconda strofa, la facciamo tutta. Io non mi preoccupo per lo spread, perché nella testa c'hai troppi dread. Rispetto le bestie perché penso vegan, poi porti i tuoi cani ai concerti metal. Mangio dell'aglio e delle gran cipolle che vanno a finire nelle tue ascelle. Boicotto gli Smarties ma non resisto al Nesquik. Metto tutto il crack nella pipetta, stando in cima alla culetta, tutto il mondo mi vedrà. Ehi, sono qua. Faccio quel che dice il commissario, però all'incontrario, così al fresco lui mi porterà. Sono. No, no. Senti mo cosa succede. Finalmente. Senti cosa è successo. Sono stato arrestato dai carabinieri per il modo di vestirmi. Credo che sospettino un legame fra me e l'anarchia, ia ia ia oh. Guardi, ci deve essere un errore, sono il figlio del questore, chiami pure il mio papà. Papà, se vuole mi esponga la berlina, mi sporchi la fedina, tutta pubblicità. Mi sporchi pure la fedina. C'hai mica una cartina, il mio nome è Jesus Christ. E questo quanti anni ha? 5 minuti. No, no, siamo dei geni. Questa è nuova. Sì. Perché vabbè, adesso ci siamo. Siete tornati dopo un bel periodo di assenza, quasi ventennale, anzi 20 anni. No, non quasi. Non quasi. 20 anni. Precisi. Fai presto, quando è arrivato Berlusconi ci siamo fatti da parte noi. E forse qualcuno di noi è Berlusconi. Esatto. Aglia. Com'era travestito? Com'è Raffa che è Berlusconi travestito? Vabbè, allora, me l'avranno già chiesta in tanti. Perché siete tornati? Invece, boh, perché no? No, no, per me va benissimo. La domanda. Noi siamo molto felici. No, così è stato un po' una casualità. E un po' è stato un evento anche, se vuoi, spiacevole, perché è scomparso un amico che è stato quello che un po' ha riunito la band veramente dopo tanti anni. E si è stato fatto questo concerto dove c'era la formazione originale al Vox. Sì, poi dopo da lì è tornata un po' la voglia di una parte della band sì, una parte della band no. E niente, cioè io, Termos, abbiamo deciso di andare avanti, abbiamo cercato dei personaggi un po' così, come vedete. Alto suonante, no, loro non lo vedono, in radio non si vede. Perché non si vede un cazzo. però potete presentarvi. Allora, presentatevi da soli, dai. Cioè. Va bene. Garu, nuovo supporto ritmico. Fa la facile, supporto basso elettrico, dai. Garu basso elettrico. Io sono Raffa, che poi suono anche un po' la chitarra ogni tanto, così, e poi parlo ogni tanto. Io sono scheggia, l'altra mezza chitarra praticamente, dall'altra parte del palco. Io sono sempre Iana. Esatto, Iana sempre Iana. E Termos? Okay, Termos è sempre Termos. Cosa fa Termos? Batteria. Ah sì? Sei sicuro? Scalda i liquidi. Scalda i liquidi. Esatto, mantiene i liquidi caldi. Ottima osservazione. Ma però c'è quasi una generazione di mezzo. Beh, bello è quello. Quindi passo la palla alla nuova generazione, sì, alla nuova Paolino. Cosa è cambiato? O quantomeno, come la vedete voi Modena adesso? O avete contribuito ai testi? Come... Ma sì, beh, diciamo che del nostro cerchiamo sempre di mettercelo comunque, essendo in teoria musicisti, però magari potrei anche sbagliarmi. Siete musicisti di professione? Siete Sì, molto no, professionali. Siamo professionali, non siamo di professione, siamo più professionali che di professione. Questa è grossa. dai, cioè. Lo spirito è sempre quello, studiate, lavorate e poi suonate. Sì, esatto, comunque sì, la base è sempre quella, ci abbiamo la nostra vita e nel privato ci piace andare a tirarci delle testate in sala e insomma creare, suonare pezzi divertendoci molto e comunque creando una chimica che si sta comunque, concedendo la ripetizione, creando ancora fra di noi sempre maggiormente di più, che ci permette poi di sfociare in dei live veramente esagerati. Fantastichevolissimi. Fantastico. Non l'ho già capito. Beh, stasera... Lo rispiego. Stasera chi verrà a vedervi al breakout qua vicino... Rimarrà molto contento. Ma questa la fate ancora? Poi, stancato. Come contentuto. Questa la facciamo, vediamo. Chi è? Certo, come possiamo non fare questa? ragazzi, dove andiamo? Dai, che andiamo al cinema. Sì, però che film guardiamo? Uno di quei porno a satanati con le fighe tutte nude. Oh yeah. So se vacche lesbiche puttane. Oh yeah. M'è venuto un colpo quando ho visto, ahimè, la faccia di mia madre. Quella sera non ho avuto più parole per esprimere tutto il mio stupore. Ho detto, io che ti credevo una fata, sei un'attrice affermata, una professionista di successo, sei un sesso. Sono sconvolto e sono distrutto. Poi a letto me ne torno, tiri fuori il tuo giornale porno con le solite sassone. Oh yeah. Che ne vedi in ogni posizione. Oh yeah. Guarda quella bionda è proprio bella. Ahimè. Ma la guardo bene, ha una faccia assai carina. Non si può sbagliare, quella lì è mia sorella Marina. Sera non ho avuto più parole per esprimere tutto il mio stupore. Ho detto, io che ti credevo una fata, sei un'attrice affermata, una professionista di successo, sei un sesso. Non è mica tanto bello essere figli di una star. Non sono cose che piacere di sicuro possono fare. Dopotutto quelle donne che non hanno pudore alcuno, di sicuro sono mamma e zia e sorella di qualcuno. Con qualcuno potresti essere proprio tu. E forse anche tua madre fai alla TV. Ricordati che tu la stai facendo lavorare ogni volta che un film porno tu guardare. Ah, con la voce maroccata. Ah, sì. Funziona ancora, immagino, dal sì. vivo. Sì. Anche perché dal vivo riproduciamo lo stesso identico orgasmo, esatto, coito che c'è nel disco. Ma dire. Una curiosità, ma chi è sta Marina? Marina, boh. Cioè, una tra le tante. Forse era sua mamma davvero. No, io non ho la mamma, ce l'ho, ma la sorella no, quindi non può essere mia sorella. Cosa, mia mamma si chiama Marina, un po' mi... Tua nonna color sacchiotto, allora, qua, sì, che fa film porno. Cazzo, è una cosa, potrebbe essere interessante, cioè, un nuovo filone interdentale. Esatto. Visto che stiamo parlando di porno, tu periodo di fetta eccetera, allora bisogna parlare anche di Maso, Marco Masini, sì, che è il vecchissimo bassista di Paolino, che c'era solo in fetta, solo in fetta. Solo ai tempi di fetta, diciamo. Diciamo che è stato il primo bassista della band. Sì. Porno Tu, Fetta, sono nate a Castelnuovo, Rangone, in sala prove con Maso. Sì. E poi vabbè, Compagno Cittadino, per dire, è un pezzo di Maso. Cioè proprio creato, diciamo che il 90% del pezzo è roba sua, poi dopo ovviamente ci sono stati gli arrangiamenti degli altri, qualche ritocco al testo, ma è roba sua. E anzi, mi sembra di ricordare che anni fa, cioè qui proprio a Radio Città del Capo, ci fosse un programma che per sigla aveva Compagno Cittadino. Ah, può darsi. Ma la guardo bene, ha una faccia assai carina. Cosa fai rima con carina? Marina. Non avevate vie di scampo. No, esatto. Tutte le altre parole, quelle belle, famose, erano già state usate. Vi rimaneva quella. Ah, sì. Ma appunto, Fetta, perché ormai siamo in chiusura. E tra l'altro ormai siamo alle europee. Alle europee tu voti Fetta. Non potevano metterla in chiusura, scusate. Anch'io avevo poche vie di scampo. Ma da dove nasce Fetta? Beh, l'anarchismo. Dalla realtà, cioè della serie vi siete mangiati tutto, mangiatevi anche questa. Infatti il discorso di mettere la fetta nella scheda, perché tanto, cioè, voglio dire, simbolicamente almeno mangiate qualcosa di buono, cioè. Esatto, invece che dei soldi. Ma d'altronde io mi ricordo a Radio Antenna 1, radio di Sassuolo, ormai defunta, più o meno in ogni periodo elettorale, la sera prima delle elezioni davano fetta, è vero. C'era fetta, è vero. A prescindere. Ma la cosa anche su K-Rock, però, eh? Anche K-Rock ci regala delle emozioni. Ma la cosa triste è che è ancora attuale. Cioè, da un lato è positivo per noi a livello musicale, ma cioè è tristissimo a livello sociale. Perché vuol dire proprio che. Anzi, non è cambiato un cazzo. Non solo non è cambiato, è peggiorato. Ma forse stava cominciando in quel periodo. Di che anno è fetta? Ecco, quella è dell'89-90, credo. 89. Ma già, sì. 91-92. Cioè, nata probabilmente nell'88. Creata, poi dopo pubblicata nell'89 con fetta. Vabbè, comunque la consapevolezza politica c'era già nell'88. Sì, sì, beh, vabbè, quello era. C'era già anche Berlusconi. C'era già Maurizio Costanzo. C'era Maurizio Costanzo. C'era già il porno, c'era tutto. Cioè, tu ascoltati Pentole, c'è l'elenco dei personaggi che giravano in quel periodo. E purtroppo, a parte quelli che hanno tirato le cuoie, sono ancora tutti lì che girano. Sì. Quindi non c'era via d'uscita. No, cioè, secondo me proprio siamo. Per fare una citazione di Freak Anthony, che dicevano che quando uno raggiunge il fondo prima o poi comincia a risalire, lui diceva no, invece noi cominciamo a scavare. Questa è di Freak Anthony, tanto per fare una citazione. Ma vabbè ragazzi, io vi ringrazio molto di essere stati in studio con noi. Ricordo che questa sera siete dal vivo qua a due passi al Freak Out, e intanto chiudiamo con fetta, salutiamo anche noi, ci risentiamo sabato prossimo sempre alle 16 con una nuova puntata di This is not an exit. Appunto, questa non è una via d'uscita. Beh, beccatevi intanto questa. Tu che leggi sempre solo i giornali dello sport e non sai nemmeno che hanno mare mo. Tu che credi che la scheda elettorale sia come la schedina e voti col sistema. Ma simpatica, meravigliosa fetta. Mi salano di prosciutto con il ketchup, con lo strutto di mortadello, di pancetta all'Europa e un po' di fetta. Con la scheda la tua bella. A montare non c'era la matita, che caccore che hai messo con le dita. Tu dovevi votare, hai visto i tuoi amici e sei andato a fare un giro in bici. Tu che butti sempre le cartacce in mezzo al prato, voti verde perché lì sta il cielo fiorellato. Tu vai dentro la cabina e con la tua manina ti fai una sega mentre voti cicciolina. Bellissima, simpatica, meravigliosa fetta. Di salato, di prosciutto fetta. Con il ketchup, con lo strutto fetta. Di mortadello, di pancetta fetta. All'Europa e tubo di fetta. Poni nella scheda la tua fetta. Bellissima, simpatica, meravigliosa fetta. Di salato, di prosciutto fetta. Con il ketchup, con lo strutto fetta. Di mortadello, di pancetta.